Contessa l'infante! O mio Rodrigo! Altezza! E tu ti astringa il cielo! O mio prece, signore! Chiama il popolo fiammingo, soccorrere tollo dei, ti fa suo salvator. Ma di Dio, quale valor calpena, un lampo di dolor sul giglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristo il cor. Carlo mio, con me, di il tuo dolor. Mio salvatore, mio fratello, mio fedele, l'ansia più bianca in seno a te. Versami il cuore, la strazia crudele, l'anima tua non sia chiusa per me. Parla, lo vuoi tu, la mia sventura prendi, a cuore rendo strati, il mio cuore trapassò. Amo. Un colpevole amor. Elisabetta, tu amor! Giusto ciel! Qual pallor lo sguardo chini al suol? Tristo me! Tu stesso, mi ora trego, fai lontani da me! Io te posso giurare, tu soffri, da per me l'universo di scala! Mi ora trego! Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora. No. Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra. Caccia il tuo cor degna di te, opera farai. Apprendi o mai in mezzo a gento presso a divenire un re. Ti seguirò, fratello. Ascolta, le porte della Silsa prongia, qui verranno Filippo e la regina. Elisabetta! Rinfranca accanto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla. Domani